Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. La liberalizzazione dei mercati impone che imprese e organizzazioni non governative collaborino per creare mercati che favoriscano le fasce più deboli, scrivono Jeb Brugman e C.K. Prioled sulle pagine della rivista Harvard Business Review. Negli ultimi 5 anni, alcune aziende hanno cominciato a prestare attenzione ai clienti che si trovano in fondo alla piramide dell'economia. Alcuni pionieri si trasferiscono nelle città e nei villaggi dell'interno, mentre i manager intermedi passano più tempo di quanto ci aspetteremmo ad acquisire conoscenze locali, a valutare le condizioni tecniche, a sviluppare modelli di business low cost e di marketing sociale. Nel frattempo, molte ONG hanno avviato attività per fornire lavoro e redditi alle persone sottoposte alla tirannia della povertà. Sviluppo del prodotto, logistica, project management e tecnologie espandibili sono alcuni dei meccanismi usati per innescare lo sviluppo socio-economico in comunità per lungo tempo trascurate. Comprendendo che ciascuna possiede competenze, infrastrutture e conoscenze di cui le altre hanno bisogno per operare nei mercati a basso reddito, aziende e ONG stanno cercando di imparare le une dalle altre e a lavorare insieme. Poiché interessi e capacità convergono, aziende e ONG stanno creando insieme dei modelli di business innovativi che aiutino i nuovi mercati in fondo alla piramide e i segmenti di nicchia nei mercati maturi a crescere. Questi modelli, secondo noi, porteranno a strutture innovative che possono legittimare la validità sociale delle imprese e al tempo stesso permettere lo sviluppo sostenibile e accelerare la lotta alla povertà. Questa convergenza richiede però che i manager di entrambi i settori comprendano appieno le opportunità e i rischi del lavorare insieme. Aziende e ONG sono arrivate alla stessa conclusione per strade diverse. Nel corso degli ultimi decenni, in cui molti paesi hanno aperto la loro economia alla concorrenza straniera, spesso per ordine del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, i mondi del business e dei gruppi sociali hanno combattuto aspramente. All'inizio, entrambi gli schieramenti lottavano pubblicamente e con vigore contro i governi a proposito delle necessità, della natura e delle tempistiche delle riforme economiche. Mentre le aziende, specialmente le multinazionali, volevano che i governi riducessero in modo drastico i dazi doganali e consentissero subito in ogni settore gli investimenti dall'estero, le organizzazioni sociali sostenevano che la liberalizzazione dovesse avvenire lentamente e solo in alcuni settori. Poi, quando i governi ammorbidirono le norme su lavoro, ambiente e investimenti per attirare gli investitori stranieri, i due schieramenti ingaggiarono una guerra ombra sul futuro delle riforme. Infine, quando ormai il ruolo normativo dei governi era passato in secondo piano, aziende e ONG si sono scontrate direttamente a proposito dei confini all'interno dei quali dovrebbero operare le aziende socialmente responsabili. Queste battaglie hanno portato a 3 conseguenze inattese. La prima è che le ONG sono emerse come regolatori di fatto per il settore dell'imprenditoria, occupando il vuoto che avevano lasciato i governi. Questo ruolo non è nuovo per loro. Infatti, già da vari anni, influenzavano i mercati in aree come la regolamentazione della produzione chimica, la responsabilità per le fuoriuscite di petrolio, le emissioni gassose, i rifiuti liquidi, gli standard farmaceutici e alimentari, il lavoro minorile e la discriminazione nel lavoro. La loro influenza ha creato una griglia di regole più rigide nei requisiti normativi oggi richiesti alle aziende. Le ONG possono essere piccole, ma attraverso internet anche una sola persona o organizzazione è in grado di coordinare delle smart mob, delle masse intelligenti, permettendo alle ONG di coordinare simultaneamente azioni su diversi fronti. La seconda conseguenza è che le imprese hanno investito parecchio per sviluppare il know-how per fronteggiare le ONG. Spendono tempo e denaro per lanciare controcampagne che proteggano la loro immagine. Inizialmente lo facevano in modo difensivo, usando slogan sociali nelle pubblicità e creando enti no profit che controllavano da lontano. Con il tempo hanno sviluppato strategie più attive. Alcune aziende, ad esempio, hanno imparato a sottoporre il loro caso direttamente ai consumatori. Hanno sviluppato iniziative di responsabilità sociale aziendale, schemi di autoregolamentazione volontaria e programmi di marketing finalizzati. Più recentemente hanno lanciato campagne di interesse pubblico corredate da messaggi pubblicitari. Per avviare questi programmi, le aziende hanno assunto persone dal settore no profit in grado di portare al loro interno le reti, la credibilità e lo spirito delle ONG. Terzo, i mercati si stanno trasformando in un'arena in cui imprese e ONG possono interagire. Per le aziende, la liberalizzazione ha dato accesso a nuovi consumatori, ma raggiungere la fascia di reddito più bassa è comunque difficile. I dirigenti devono inventare nuovi modelli di business se vogliono avere successo in questi mercati e spesso scoprono che le ONG possiedono le conoscenze, le infrastrutture locali e le relazioni necessarie per farli funzionare. Ci sono ONG che hanno creato vaste reti di distribuzione per fornire cibo, farmaci e credito, specialmente nelle zone più remote. Hanno sviluppato una profonda conoscenza delle culture locali e delle abitudini di consumo. Inoltre, hanno guadagnato la fiducia delle persone grazie all'assistenza fornita alle comunità svantaggiate e colpite da povertà, calamità naturali e guerre. Le aziende stanno cominciando a lavorare con queste organizzazioni per entrare in mercati nuovi. Allo stesso tempo, il calo mondiale della spesa pubblica nei programmi sociali ha costretto le ONG a modificare le loro strategie tradizionali di lotta alla povertà. Laddove le ONG un tempo vedevano gli aiuti governativi e la beneficenza privata come gli unici modi per sconfiggere la povertà, ora considerano anche l'imprenditoria come approccio praticabile. Hanno reinquadrato i poveri come imprenditori senza capitali, senza riconoscimenti e senza supporto, e hanno ridefinito la povertà come un problema di sviluppo dei mezzi di sussistenza. Così, mentre le aziende hanno scoperto l'importanza delle ONG come strade per i mercati, i gruppi sociali hanno capito che dei modelli di business attentamente calibrati possono essere la soluzione potente per interventi radicali ed efficaci. Le loro interazioni hanno creato nuovi collegamenti tra l'innovazione del business e lo sviluppo sociale. Aziende e ONG sono sempre più intenzionate a fare affari insieme, a perseguire dimensione e profitti, equità sociale ed empowerment come parte di una catena del valore integrata. Avete ascoltato la lettura di alcuni estratti dall'articolo di Jeb Brugman e C.K. Prioled «Creiamo assieme una nuova presenza sociale nel business», tratto dal CD-ROM 100 grandi idee di management. Il CD, allegato al Sole 24 Ore, contiene i 100 migliori articoli pubblicati nel periodo 2007-2008 nell'edizione italiana della rivista Harvard Business Review.